Sono le 22 e 23 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera a Maurizio Calzavara, buonasera a Michele Toson, buonasera a Roberto Baldi che come sempre cura le telecamere, Michele è in regia e buonasera alla pensione Garibaldi. Buonasera, buonasera. Benvenuti, vi ho aspettato da un po' di tempo ma stavolta siete arrivati chiaramente. Abbiamo fatto i nostri accordi, siamo arrivati e cominciamo fra poco, cominceremo a suonare, ma prima parliamo di voi. Perché pensione Garibaldi? Perché questa musica? Perché l'introduzione? Perché questo motivo musicale? Questo riprendere un percorso interrotto un po' di tempo fa? Ma posso provare io a, dai, vai, prova a te a dire qualcosa. Innanzitutto, strumento e chi sei? Io sono Stefano, sono il basso. Benissimo. E saluto tutti gli ascoltatori di Blu Radio e tutti gli amici della pensione Garibaldi. La pensione Garibaldi ha interrotto il suo percorso nel 2003 e ha lasciato veramente un vuoto. Più che altro nelle persone che facevano parte, che hanno fatto parte della pensione Garibaldi. E per questo motivo noi abbiamo sempre cercato di per un periodo di suonare con altre band, però purtroppo L'idea era quella di rifare il discorso, di allargare il discorso un'altra volta. Nell'ultima esperienza con una band che si chiamava Mood Machine abbiamo conosciuto Davide, che è l'attuale batterista della pensione Garibaldi, e lui ci ha convinto a riprendere come ti ha dato l'input per dire rifacciamo il discorso, riprendiamo questo percorso interrotto per motivi diversi? Davide ha cercato in tutti i modi di coinvolgerci e fondamentalmente di convincerci che credeva in noi e effettivamente ci è riuscito. Lui suonava la batteria, quindi coinvolgeva in ogni caso, certo. Proprio dava l'input, la spinta. Quindi il percorso è cominciato a rifare, è fatto questo percorso, questa band si è riformata e praticamente avete allargato. Sì, abbiamo allargato, abbiamo inizialmente conosciuto Andrea, che è il chitarrista della pensione Garibaldi. Perfetto. E lui ha portato veramente linfa nuova, ecco, nel gruppo. Anche un po' di Hendrix. Dopo ne parliamo assieme, perché prima gli ascoltatori diranno: ma perché ha portato un po' di Hendrix? Perché noi abbiamo parlato prima dell'inizio della trasmissione, mentre andava la partita di pallavolo, è un po' hendrixiano, cosa dici che sia un po' hendrixiano? Leggermente hendrixiano, ma è bello così. Hendrix era il padre di tutti i chitarristi, secondo me, ha sempre dato qualcosa, quindi Hendrix c'è qualcosina te. Dopo ne parliamo assieme, abbiamo tempo fino a mezzanotte ed oltre. Tu sei quindi il bassista e poi presentiamo il cantante che è qua. Ciao a tutti, ciao agli ascoltatori di Blu Radio, gli amici, fan, chi più ne ha più ne metta. Stasera abbiamo telecamere, quindi sì, li inquadrano tutti quanti. Tra telecamere, tra voci qua, e tanti bei strumenti, tanti bei strumenti, belli, belli, belli. Io sono Riccardo, il cantante, e delle volte sono anche chitarrista, adesso porto stasera c'è chitarra. La chitarra, chiaramente, sì. Una Ibanez, possiamo dirlo, la marca è famosissima, quindi non c'è problema. La mia piccola, sì. Beh, io sono arrivato nella pensione non da tanto e ormai ho formazione già compiuta, diciamo. Sono stato fortunato, ho avuto un'illuminazione. Ti sei sentito bene subito, però. Ho trovato qualcosa di diverso in loro, sicuramente. Perfetto, perfetto. Adesso parliamo con il nostro tastierista, che è qui vicino a me, davanti proprio praticamente. Ciao, buonasera. Spero che arrivi il segnale. Sì, sì, il segnale arriva. Forte, chiaro. Mi dica. Mi dica le sensazioni di questa ricostituzione, questo percorso da fare. Beh, allora non si riusciva più a stare senza, io non riuscivo più a suonare a casa praticamente e non riuscivo più a... scusate, mi sposto un attimo perché dicono che c'è... Avvicinali quello. Sì, possiamo parlare solo con un microfono allora. Eccomi qua. Allora, si diceva, a un certo punto mi sono trovato a suonare in cantina di nuovo come una volta, però dopo un'esperienza diciamo di strada fatta con la pensione Garibaldi ai primi tempi, c'era di nuovo la voglia di rifarlo, ecco tutto qua. Benissimo, adesso abbiamo Battista un po' distante e... adesso arriva, sentiamo anche lui che è stato uno dei che ha dato lo stimolo, l'input giusto per la ricostruzione della band. È tutta colpa tua, è tutta colpa mia, esattamente. Capita le volte di incontrarsi mentre tra un progetto e l'altro, e sicuramente quando ho conosciuto Lorenzo e Stefano e abbiamo fatto assieme i Mood Machine, sicuramente al di là poi della resa musicale della band, quello che è saltato fuori mancava qualcosa ancora. Chiaramente se un progetto termina evidentemente certo. Qualcosa non funziona, certo. Quello che è rimasto di importante è il feeling sia umano che musicale che si è creato tra noi tre, che è quello che poi mi ha spinto a spingerli. Quindi avete scritto sei pezzi, sei piccoli ritratti, sei acquerelli, certo. Per costituire questo nuovo EP che si chiama Son Così, che è uscito da poco, che è la storia che deve ricominciare, deve iniziare, certo. Deve essere portata avanti. Parliamo un momento col chitarrista che prima ha solo citato Hendrix. Buonasera a tutti quanti innanzitutto. Buonasera a te. Io sono Andrea, chitarrista della band, il più piccolo, il più il giovane. Più giovane, il più giovane. Che lì fai portato, sì. Per questi signori sono un po' più anziani di te. Forse ho portato un po' di chitarre distorte, ecco. Come dicono loro. Hai portato un po' di chitarre distorte. Sì. Non tanto distorte, nel disco non è che si senta molto la distorsione nel disco chitarra. È stata fatta una scelta comunque di avere più delle chitarre pulite, esattamente, i crancioni magari classici così, non distorsioni grossissime, proprio per una scelta di produzione, sperando che sia piaciuto questa scelta. Sicuramente a me è piaciuto e anche gli ascoltatori. Adesso apriamo la finestra allora. Apriamo la finestra. Apriamola. Per sentire un primo pezzo di questo EP, si chiama Son Così. Non so che traccia avete scelto, la traccia, ti ricordi? Abbiamo lasciato la traccia numero uno, che è il pezzo, il nostro, quello che consideriamo il singolo, ma ne parliamo dopo, prima lo sentiamo, ok? Ok. Rock Wave, l'onda del rock, l'onda del rock. Cose utili da dire, un po' da definire. È importante prima di viaggiare un po' chiarire. Goloso di emozioni e di sogni, ricerco nei miei bisogni, rispetto i miei errori, cercando i colori, i profumi dei fiori. Visione del domani, volare senza ali è la linfa di noi umani. Mani, mani, son così. Ecco, Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo detto che la title track, si dice così, cioè la traccia iniziale, la traccia che dà l'aspetto, che apre la finestra nel disco, anche se il disco è un po' diverso poi, è una traccia accattivante, entra dentro, ha un ritornello, è potente ma non potentissima. Come è stata costruita l'idea di fare questo pezzo? Com'è nata? Dimmi. È tu, colpa tua? Il testo l'hai scritto te? Sì, dicono che sia colpa mia. Dicono che sia colpa tua. Beh, guarda, posso dire, dimmi. C'è un piccolo aneddoto secondo me su questa canzone, perché quando noi avevamo deciso di registrare i pezzi che stavamo costruendo, questo pezzo non esisteva. Praticamente è arrivato alla fine del lavoro. Come l'avete messo per primo allora? Perché era l'ultimo ed era proprio quello che in quel momento ci rappresentava perfettamente. È proprio il fatto son così, è proprio come eravamo noi in quel momento, e effettivamente poi è il pezzo più immediato, che ha il suo perché, insomma, quello che ha più tiro. Lui fa una bella performance vocale in questo pezzo. Mm-hmm. Si è agitato. Si è agitato nel momento giusto. Comunque scusa, volevo Dimmi. Dire, perché prima hai nominato la chitarra del cantante, però sì. È molto importante la chitarra del chitarrista. Questo è chiaro. La chitarra principe del chitarrista. Oggi poi è qui con la sua mitica Gibson. E quindi... dobbiamo sollevarci in piedi tutti quanti allora. Il nostro tastierista in realtà non è innamorato dell'amoroso, è innamorato della 335 e del chitarrista. Ah, vedi. Dà un certo senso avere una Gibson di fianco. Secondo me sì. A me dà un certo senso positivo, assolutamente positivo. E a me mi interessa, come sei entrato, cioè che sonorità hai sistemato in questo singolo, in questa title track? Allora, sicuramente... Quando io l'ho sentita, lui è arrivato una sera con questa canzone buttata là. Come si crea una canzone dei Porto Garibaldi? Beh, allora... Depressione Garibaldi, scusa. Allora, come per esempio, nasce? Quella come sera nasce? Lui è arrivato là con il testo e una linea di accordi. L'ha fatta sentire e in pochissimo tempo, cioè nell'arco di forse di... nella prova stessa di quella sera... è venuta praticamente quello che era un po' la pasta di quella canzone, tutta quanta la linea... La parte più bella era venuta fuori direttamente. Sono essere convincente? Democraticamente? Sì. Ah, la cosa bella è che è venuta proprio di brutto e tutti quanti assieme. Benissimo. Per cui, forse anche per questo è stata scelta proprio come singolo e come prima traccia. Sì. Ci ha unito tutti. Cioè, non ci sono state discussioni, o le discussioni sono state costruttive. Così era. Si chiama così. Esattamente. È una giusta title track. Benissimo, allora adesso riapriamo il discorso un'altra volta, perché sentiamo un secondo pezzo. Prima devo fare una cosa doverosa: salutare la nostra redazione al femminile. Attenzione. Certo, la Patrizia, la Silvia e la Nicoletta, che sono il quid fondamentale per portare avanti il discorso musicale. Quindi la nostra redazione al femminile. Le salutiamo anche noi. Benissimo. Non le abbiamo viste passare adesso. No, ma sono di là. No, non sono di là, però ci sentono, sono la redazione al femminile. Parliamo del secondo pezzo che avete scelto, mi pare la traccia numero 4, mi pare. La sentiamo prima, cosa dite? E poi ne parliamo come sempre, ok? Buon ascolto. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eh sì, abbiamo anche il fotografo, hai visto? Grandissime cose, abbiamo anche il fotografo stasera. Bene, parliamo della costruzione di questo pezzo. Parliamo. Sei tu il protagonista di questo stop and go. Due o tre volte l'ho sentito. Sì, dai, sì, dimmi sì. Come l'hai creato sto stop and go. Che volutamente te perché... Te lo dico appena finisco di litigare con le cuffie, ecco, che c'è le cuffie da macrocefalo stasera. Che sono perché questo stop and go? È bello, i stop and go sono sempre interessanti per un batterista. In realtà... Non è proprio farina tutta del mio sacco. Beh, è farina, dai, farina. Perché è farina, io l'ho un po' impastata. È poi impastata, dai. In realtà in questa band devi sapere che c'è sono due persone fondamentali dal punto di vista della scrittura. Certo. C'è un creativo, che lo, sarebbe... lo vedi anche dal capello che è creativo, che è abbastanza... Cioè, poi c'è una bella... maglietta che è molto creativa, proprio originale americana. È il vero rock, è vero rock. Il vero spirito rock. Presliamo in tutti i sensi. E poi c'è il razionalizzatore. Sì. Che è lui. Bassista. Il bassista. No, bassista. Razionalizzatore. Quindi due entità importanti. Esatto, dall'unione di queste due entità esce fuori la maggior parte delle scritture, no? E la linea, anche la linea di batteria inizialmente era stata ideata da loro, poi l'abbiamo messa a punto assieme, abbiamo cercato di creare un certo sincronismo tra basso e batteria in modo da sottolineare un po' la dinamica del pezzo. E... Ma tu devi dire qualcosa, sei il batterista. E certo, infatti io dico la mia, faccio su quello che fa casino, poi alla fine dico sempre la mia. Però sempre... democraticamente, come abbiamo detto prima, vi siete trovati, avete trovato un accordo. Sì, qualcuno gli si accende la lampadina, come dire, poi tutti assieme si mette giù, si razionalizza il pezzo. Benissimo. Poi, oltre alla parte di batteria, chiaramente poi in questo pezzo dice la sua in maniera palese anche il 335. Ecco, il 335. Adesso il 335 prende il microfono e mi spiega, non questo Edixiana visione, ma quasi. Dimmi. Ma no, non siccome è difficile da spiegare, nel senso... No, devo spiegare, nel senso... Com'è stata l'idea? Lui ha parlato della batteria, l'inserimento della batteria, dopo c'è stata una discussione democratica, e l'inserimento della chitarra della solista. Diciamo che gli abbiamo tirato la statuetta del santo, così democraticamente abbiamo deciso che doveva fare così. Ok, ho capito. Molto attuale. No, nel molto senso attuale. Che seguendo la linea vocale un po' di quello che era la traccia di Riccardo, la cosa che a me è venuto è quella di buttare una chitarra che riprendesse comunque un po' la linea vocale e avesse anche un po' quel qualcosa di un roccheggiante, sì, un po' tipico mio. Esattamente, c'è roccheggiante, c'è potenza, però non c'è una potenza viscerale nel disco. No, dal vivo sarà è una chitarra allegra, la è una chitarra allegra. Non è aggressiva. È una chitarra aggressiva. Dal vivo sarà un po' diversa. Sì, è un po' più cattivotta, un po' più cattivotta. Grossa, perché avete scelto di fare un disco sì aggressivo, però non aggressivo totalmente. Cioè la melodia esiste, è ancora una barriera che esiste, perché che poi la botta gliela vogliamo dare dal vivo. Giusto. Beh, anche perché giustamente la parola melodia è secondo me la base delle canzoni, cioè ogni canzone ha una melodia e dovrebbe emergere sempre, cioè molte volte è bellissimo ascoltare anche gruppi molto spinti, sì, diciamo new metal o sì, anche certo, si chiama emo core, sì, le nuove tendenze, quelli che proprio poi sono più ascoltati, se ci si fa caso sotto c'è veramente una linea melodica, è difficile magari individuarla, però c'è. Quindi l'idea è questa. Quindi l'idea cioè, melodia, il ritornello deve venire fuori in ogni caso, sì, che non sia così lampante, però deve essersi, insomma. Adesso, siamo pur sempre italiani. Esattamente. Sì, siamo fuori da, cioè, l'Italia è da quello che penso io, diciamo, il canto unito alla musica è nato proprio in Italia con il melodramma. Siamo d'accordo con te. Sì, io volevo dire. Dimmi. Fin dalla prima formazione della Pensione Garibaldi, la ricerca della melodia è stata proprio un obiettivo molto importante. Già la scelta del nome, sì, in esatto, un periodo in cui i gruppi di nostri coetanei sceglievano comunque dei nomi molto, diciamo, esterofili. Molto esterofili. Sì. Noi abbiamo sempre cercato, diciamo, siamo subito distinti con questo nome un po' particolare. Sì, sapeva di vacanze, di sole, sì, di sì, estate. Sì, molto di qualcosa di italiano. Di italiano, semplice, assolutamente, esatto, semplice. Esatto. Questo è importante. Fin dall'inizio abbiamo sempre cercato di scrivere poi esprimendoci nella nostra lingua, perché diciamo è una scelta. Era una scelta per essere anche più ovviamente, insomma, cioè più capibili, più capibili e, esatto, molti gruppi che sono venuti qua, tanti gruppi hanno scelto la lingua inglese dicendo, ma poi forse... anche giustamente, che l'inglese si ascolta, cioè si canta meglio. Sì, può darsi anche che per loro sia una forma di comunicazione più diretta, più semplice. Certo, certo. Sicuramente le parole si incastrano meglio, sicuramente le melodie escono fuori meglio. Però è difficile l'italiano, è chiaramente difficile anche musicare i pezzi italiani, sono difficili, no? Sicuramente. Sicuramente sì. È più difficile. Chiaramente. Siamo pronti a musicare, cioè a suonare praticamente, sono le 22.47. Come no. Adesso ci mettiamo a posto, il batterista arriva nel suo angolo. Bella batteria, una bella, bella, luccicante batteria. Sei contento della tua batteria? Beh, ci vedo, molto contento. Abbiamo una chitarra, due chitarre, un basso, abbiamo le tastiere e abbiamo Michele in regia che coordina tutto quanto, quello importante. Vero Michele? Eh sì, dobbiamo anche Roberto Baldi. Siamo pronti? Quasi, siamo quasi pronti. Rock Wave, l'onda del rock. Vedi il limone che pareggia, uova pelle che mi amici lo sai. Ok, benissimo. Bella, bell'inizio. Tanto pathos, tanto grinta. Anche qui hai fatto un stop and go, eh? Sempre, sempre. Ci divertiamo un sacco. Ci piacciono parecchio gli stop and go. Ti piacciono gli stop and go? Sì, sì. Ti seguono subito loro, praticamente. Sì, beh, ma è un vizio di tutti. È un vizio di tutti. Stop and go, ne facciamo spesso il pit stop. Anche ho visto il cantante, tanta grinta, chitarrista, sei un po' limitato, Sì, sì. Ha messo la sordina alla grumetti. Però Hendrix arriverà più tardi, probabilmente, qualcosina Hendrix. Che dobbiamo, ci hanno detto di suonare in punta delle dita. Siamo in uno studio radiofonico, però è già importante questa adrenalina che scivola, che va, che speriamo passi, speriamo passi. No, deve passare dopo le 12:15, come abbiamo finito. No, passi nel senso passi alla gente. Ah, ma certamente. Ma la gente da noi a voi. Ah, ma la gente passa sicuramente, si vede, si sente, secondo me. Dal vivo come l'ho fatto? Un momento più violento questo pezzo o su questo livello? Beh, diamo un pochino più di energia sicuramente. Io non uso le frustine, uso le bacchette. Le bacchette normali e pesti. Pesto un po' di più. E pesti un po' di più. Sì. Però insomma, ripetiamo, non sono un pestone. Non è l'indice vostro, il vostro pestare, no? Assolutamente. No, noi cerchiamo di dare la botta con la dinamica, con la cura dei suoni, più che con la... Maurizio, ma anche riprendendo il discorso di prima, no, che dicevamo un po' che non siamo aggressivi, che non siamo... Ma perché noi non siamo aggressivi, quindi... Cioè, le nostre musiche corrispondono un po' ai nostri stati d'animo, un po' come siamo noi, ecco. Certamente. Poche parole. Siamo perfettamente d'accordo. Cioè, dal punto di vista aggressivo musicalmente, sì. Dal vivo chiaramente c'è un altro aspetto. Dal vivo è la base di tutto. Perché suonare dal vivo è tanto interessante, tanto importante, secondo voi? Perché è una cartina di tornasole spettacolare. Cioè, capisci immediatamente se il tuo messaggio è cristallino, se la gente lo apprezza. Capisci subito se sai suonare o no, perché comunque il pubblico non ci sono i giochetti in sala di decisione stavolta. Non sono i vostri giochetti, però qualcuno non ne abbiamo spesso. Fatti tanti, ne avete fatti dire. Tanti anche voi, non ne abbiamo, fatti tanti. Tra l'altro il nostro è un EP live, esattamente, praticamente inciso praticamente di impulso proprio. Quasi buona la prima, è difficile dire quasi buona la prima, è molto complicato. Sì. Beh, era un'esigenza anche economica. Soprattutto economica. Visto che avevamo diciamo un budget limitatissimo, come in questo periodo, è una cosa abbastanza normale. È una cosa normale per tutti, per non solo tutti, per voi. Bisogna arrangiarsi, quindi era veramente buona la prima. Ecco, visto che ci siamo, il discorso del budget, adesso praticamente facciamo una domanda a tutti quanti. Quanta difficoltà ha una band a suonare pezzi suoi, che non siano Vasco, che non siano Liga o d'altre cose? Tanta difficoltà, anche se dimmi, ultimamente ci sembra che stia un'apertura. Sì, c'è un'apertura. In Italia corsi di tutti i tipi, quindi è anche possibile, diciamo, tramite internet riuscire a trovare concorsi in giro per l'Italia e quindi proporsi anche al di fuori, diciamo, del proprio territorio. Questo quindi vuol dire che c'è anche un interesse da parte della gente, delle persone che vanno comunque ad ascoltare i gruppi nei concorsi, che partecipano ai contest. Sì, perché è brutto sentire un gruppo che suona e la gente mangia un panino, beve una birra e non ha il DNA, praticamente l'interesse scema, se ne va, scompare. È brutto così, no? Cosa dici? Direi che l'effetto piano bar è da scongiurare, con rispetto dei grandissimi musicisti che suonano al piano bar. Certo. Sono veramente lavoratori della musica, certo. Che fa piano bar, però loro stessi possono confermarlo. È dura farsi ascoltare proprio. Cioè, sì, sono d'accordo con te. Io conosco una band che fa circa 360 date all'anno, suonando tutti i pezzi di Vasco. Sono 360 date all'anno, praticamente tutto l'anno. Però suona Vasco, bravissimi, tutto quello che vuoi, però ci vuole un po' di creatività. Se uno è un bravo musicista, ha bisogno di suonare i pezzi suoi, secondo me. Non soltanto di Ada Chiara, tante volte. Io credo che comunque ha bisogno di comunicare qualcosa. E io non riuscirei mai a comunicare qualcosa suonando un pezzo di Vasco. Nel senso che se io suono un pezzo mio, comunico quello che ho pensato, che ho vissuto prima di comunque di creandolo. Suonare un pezzo di Vasco è qualcosa che ha vissuto qualcun altro, che io sto riproponendo. Sì, sono d'accordo, tutto il rispetto per le cover band, chiaramente sono bravissimi, però, sì, no, infatti. Però secondo me non è quello. Se uno ha scritto un pezzo deve farlo sentire, con difficoltà, ma deve cercare di farlo sentire, a mio parere. Sì. Cosa dite? Personalmente però, cioè io comunque, finché comunque si parla sempre di musica, non vorrei contrapporre i gruppi che fanno musica propria ai gruppi che fanno cover, perché comunque sempre di musica stiamo parlando. Certo, assolutamente sì. Sono bravi tutti quanti. Sono bravi tutti, cioè nel senso che è giusto che ognuno abbia il proprio spazio. Certo, in questo periodo, forse nell'ultimo periodo, c'è un'apertura verso i gruppi che fanno musica propria. negli anni scorsi probabilmente non era proprio così. Non c'era una chiusura totale. C'era proprio una chiusura. Sì, sì, sì, assolutamente. Allora forse magari anche trasmissioni come la tua, Maurizio. Ti ringrazio. Non solo, cioè, sono molto importanti. Sono molto importanti per i gruppi come a me. Non noi. Servono, indipendentemente che noi abbiamo costruito questo progetto che portiamo avanti da un po' di tempo. È importante far sentire alla gente i gruppi emergenti, i gruppi nuovi che hanno qualcosa da dire. Ce ne sono tanti, secondo me. Tantissimi. Ok, visto che abbiamo qualcosa da dire, ne suoniamo un altro pezzo dal vivo. Che abbiamo rotto bene, secondo me. Proseguiamo a rompere nel senso positivo del termine. Cosa avete deciso di far sentire adesso? Ci sta un bel distinguere. Benissimo. Rock Wave, l'onda del rock. Sono le 23 e un minuto. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, bella, bella, bella anche questa. A me interessava questa fermata, questo momento melodico, intimista, per modo di dire, tra virgolette, e poi la ripresa, l'acceleratore un'altra volta. Vedi che siamo malati di stop and go. Anche quello, lo volevo ripetere, ma tu mi hai detto. Anche qui c'è un grande stop and go. E poi questo Hendrixiano qui vicino che mi aveva dato i brividi. Fammi un secondo quella sola che hai fatto, un momento, dai, fammi sentire. La Gibson, ragazzi, questa è una Gibson vera, non è un'imitazione. Avevo ragione allora. Bene, un bel pezzo questo qua, un po' più, posso dire, l'avete leggermente trasformato, cosa possiamo dire? Possiamo dire che l'avete trasformato? Trasformato rispetto a, sì, al disco? Sì, leggermente. Beh, sì. Sempre in punta dei piedi e in punta delle dita. Esattamente. Forse è venuto, però dal vivo rende molto bene. A me personalmente è il mio pezzo preferito. Sì, a me è piaciuto molto anche a me. Le prove come le avete fatte? Avete impostato così dovevate suonare stasera, oppure c'era qualche variazione all'ultimo momento? Ci siamo preparati come per gli esami. Non è la commissione, sono io e Michele. Esatto. Dobbiamo salutare l'altra commissione, che è Alberto Pisco, che ha contribuito alla stesura della recensione. C'è Vannuccio, c'è qui, Nino e c'è anche Agostino. Che, insomma, la commissione nostra è qui intorno. E c'è la nostra fotografa. Grande. Dobbiamo salutare anche la nostra fotografa? Brava! Ok. Che noi affettuosamente chiamiamo Caterina! Fa parte del gruppo anche lei, è importante. Ok, quindi abbiamo questa stesura, questo modo di suonare molto interessante. La costruzione del pezzo dove nasce? Non l'abbiamo detto prima. Qui forse posso intervenire. L'idea. Dipende, non creativo. Non è che ci sia una regola. Il pezzo vostro come nasce? Dicevo una band che aveva il chitarrista, prendeva un taccuino in treno e scriveva come capitava, poi ritornava quando aveva finito di lavorare, ritornava, parlava con gli amici, andava in studio e cominciava a stendere il discorso, fare questo canovaccio, ad ampliarlo finché non era a posto. Come succede a voi? Noi di solito qualcuno arriva con una prima idea e la fa sentire agli altri e poi proviamo in qualche modo a buttare giù, a suonarla un po' tutti assieme, e dopodiché l'idea rimane lì un attimo, cioè cerchiamo di registrarla anche in qualche modo. Dopodiché, se a qualcuno viene, diciamo, un'idea fondamentale per sviluppare il pezzo o per arrangiamento o anche per il testo, si riporta il pezzo in sala prove e si suona. Bene. Se, dimmi. Poi, no, io volevo dire, poi appunto non è sempre uguale, delle volte anche più difficile, per esempio questo pezzo, distinguere proprio, ha avuto una gestazione molto lunga. Cioè, com'è? Come mai? È perché probabilmente anche il fatto che appunto l'inciso ritornello l'abbiamo fatto solo con il Rhodes. Sì. Spieghiamo per noi addetti ai lavori. Diciamo, ecco, esattamente, così la gente può capire. Perché c'era necessità di... sempre che fosse ben chiaro, che si capisse bene anche un po' il significato, che è il punto centrale magari della canzone, però non si sapeva proprio come renderlo, e quindi abbiamo detto ok, lo lasciamo libero con il piano così come era nato. Per esempio, voglio dire un episodio che è successo proprio domenica, sì. Tornando quindi dopo, recentissimo. Sì, tornando da un giro in centro, forse avevamo assaggiato un vin brûlé di troppo, io e il cantante Riccardo, siamo tornati a casa, lui ha aperto con la chitarra, mentre lui cantava io tiravo giù il testo proprio su un pezzo di carta che è un tovagliolo che ho lì sul tavolo, quella probabilmente potrebbe essere un prossimo pezzo. Appena ci troviamo in sala prove, è giusto che sia, bisogna prendere subito l'idea, non lasciarla sfuggire, prenderla immediatamente. Il problema è che Riccardo non se la ricorda più perché appunto per causa questo. Del vin brûlé molto la vin brûlé ma può anche fare però io ho tirato sul testo. Cioè, può fare anche adesso il posto, lo si può ricordare fra qualche giorno, probabilmente, no? Cosa dici? No, ha perso completamente tutto. Speriamo. Al prossimo brûlé. Perfetto. Allora, io proporrei questo adesso, visto che i pezzi live mi stanno coinvolgendo molto, facciamo un altro, poi facciamo il giochino nostro, ok? Un altro pezzo live, non so cosa avete scelto di fare. Cosa abbiamo? Quello che dà nome al nostro disco. Sono così allora, praticamente. Perfetto. Ok, adesso ci prepariamo e suoniamo. Thank you. faccio capire perché lo devo fare. Mano al cuore, potrei farmi odiare o amare, ma il rischio che voglio avere e non chiedermi di rinunciare. Stringe forte a te, stringe forte a te, stringe forte a te la mia passione. Sono così, sono così, sono così, sono così, sono così, certa. Di un bimbo che sa camminare, camminare, toccare con le mani la visione del domani, volare senza ali è la linfa di noi umani. Mani, mani, son così. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Si cresce, cresce il pathos, c'è niente da fare. Il live è bello per quello, perché nonostante siamo uno studio radiofonico, però c'è cresciuto notevolmente dal primo pezzo al secondo, e poi crescerà ancora fino a oltre la mezzanotte. Le note elettriche. Crescerà, vedo Michele, crescerà ancora. Crescerà ancora il pathos, le note. Ok, diretta a rockway.altervista.org, ci potete sentire e vedere. Michele in regia, Roberto Baldi ha curato le telecamere, io. Esatto, è sempre presente. Roberto stasera c'è. E c'è, esattamente. Ok, benissimo. Adesso facciamo il gioco. È il famoso nostro gioco. È i 5 dischi da portare su un'isola deserta. Comincia, no, con chi comincia? No, qualcuno deve cominciare. Dai, inizi te, dai. Il nostro Maurizio, non potresti iniziare te? No, io no, io sono il conduttore, non posso, sono esente da questo. Chi tocca? Dico io, sì. Under Blood Red Sky degli U2. Ecco, come mai questo disco non recentissimo è anche il primo periodo, che è un EP era praticamente. Sì, è vero. Beh, perché diciamo che è stato probabilmente il disco... Ti sono alzati tutti in piedi. Il disco che diciamo che mi ha convinto Ti ha aperto la strada musicale. A suonare. E questo è il motivo per il quale... scelgo questo disco. Benissimo. No, 5 a testa adesso, non è? 5 a testa. Certamente, sarebbe troppo facile. Quello che devi cominciare è difficile. Sarebbe troppo facile. Allora e non si può copiare, questa è la regola ferrea di Rockaway, assolutamente. Beh, quindi lui è avvantaggiato. Non è per sempre degli After Hours. Bello, decisamente. Manuel Agnelli, perché Manuel Agnelli? Ma allora reputo il più grande autore italiano, vivente. Interessante. Lunga vita Manuele. Vabbè, vivente, interessante. Questo poi vediamo. È un po' difficile. Ma si può intervenire anche uno a testa, sì, così a caso, sì, deve sì. Essere... Sono cinque dovrebbe. Beh, vabbè, The Dark Side of the Moon. Ecco, è un momento, ci fermiamo un secondo, perché il periodo dei Pink e non Atom Heart Mother, per esempio, e non Nice Sense of Secrets, oppure quello dopo, quelli dopo. Beh, allora, è uno spartiacque The Dark Side, secondo te? Beh, vabbè, a parte non sono un grandissimo intenditore dei Pink Floyd, però devo dire che quel disco racchiude, secondo me, una cura del suono. Sì. E anche dell'immagine. Sì, incredibile. Sì, senz'altro. E comunque anche una cura della melodia che mi ha sempre colpito, insomma. Anche i 20 anni a Billboard consecutivi, ecco, anche quella è una cura. Sì, esatto. Quindi una percorrenza lunghissima. Un disco che è tuttora attuale. Sì, assolutamente attuale. ristampato un sacco di volte con un sacco di giochetti cioè giochetti di pulizia del suono eccetera, però The Dark Side, The Dark Side. Una volta si diceva, quando si doveva comprare un hi-fi, come si provava? Con The Dark Side of the Moon. Tre. Poi un altro... ancora altri due? Altri due. Dai, ci siamo, fino a mezzanotte abbiamo tempo. Okay. lui sta scrivendo, vedi, è avvantaggiato. Prende appunti. Aiuto. Dai, posso intervenire un po' io? Dimmi, dai. Perché ne penso altri due, vai tu. Allora, io porto il primo in assoluto che ho comprato. Cioè? Adesso non uccidete. True Blue di Madonna. Perché? Perché? Perché è un legame affettivo. Soprattutto Madonna è sempre stata una che è andata sempre avanti musicalmente parlando, anche se gli ultimi dischi non penso, però no, diciamo che lì era nel pieno, insomma, nel pieno della la parte migliore. Certamente. Poi se ne ricorderà bene mia mamma, che mi aveva comprato il primo, allora, mangia cassette per ascoltare le lezioni di inglese, e io mi sono comprato le lezioni di Madonna quando suonava, lei cantava. Okay. Poi porterei Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. A proposito di Guns N' Roses, cosa ne dici dell'ultimo disco che è uscito qualche mese fa? Male in assoluto? Male. Non sono più loro? L'ho comprato. L'hai comprato? L'ho comprato. Sapevo che l'avevi comprato. Non l'ho scaricato, no. L'ho comprato. No, è giusto, bisogna comprare certe cose. Non c'entrano niente con i Guns N' Roses. Io sono cresciuto con i Guns N' Roses. Davide, sei molto attento, eh? Sì, quello è. Io, adesso quelli sono i Guns N' Roses. Rischio che mi buttino fuori dalla band. Non c'entra niente, c'è lui, insomma, c'è la sua voce, quello che è rimasto un po' della sua voce. Insomma, però insomma è un po' molto glam, mi sembra molto, molto. Difatti il successo non è stato un grande successo, perché c'era troppa attesa, un disco troppo 10 o più anni di attesa, non ha avuto il successo. Sicuramente che... Dimmi. Tanta attesa un po'. Sinceramente, dimmi. A me non ha deluso. Sei stato soddisfatto allora? Sì, sicuramente. Quello ti immaginavi? No, non mi immaginavo questo, però immaginandoli, se loro avessero fatto la musica di 10, 15, 20 anni fa, probabilmente non sarebbe piaciuto come questo album qua. Ho capito. Sicuramente non è emerso, no, però certo. Hanno avuto il coraggio di tagliare un po' di quello che era gli anni 80, gli anni 90. Hanno messo in crisi anche la loro casa discografica, perché l'indotto era incredibile, quando avevano pigiato molto sull'acceleratore, però i risultati non sono stati... Dal punto di vista delle vendite, dopo dal punto di vista qualitativo, bisogna vedere. Secondo tuo? Terzo praticamente? Qui, comunque. Appetite for Destruction, Paradise City, per ogni batterista credo che... Quello è fondamentale. Tuttora tento di farla, non ci riesco. E poi ci metterei un disco di Vasco, perché è un altro dei tuoi miti. Di quei, sì, con cui sono cresciuto. Non l'ultimo però. Io ci metterei gli Spari Sopra. È il disco del ritorno al rock, dopo un periodo di appannamento troppo poppettone. Quindi Spari Sopra di Vasco. E dopo ci metterei un disco dei Dire Straits. Quale? Ho passato un po' di anni a suonare Dire Straits da bravo coverista. Cosa di Dire Straits? Ci metterei On The Night, che è un live. Sì. Perché è un live che ho visto dal vivo all'Arena di Verona. Ed è uno dei... Credo che sia stato proprio in assoluto il primo concerto che sono andato a vedere al 90. Come suona Mark Knopfler dal vivo? Suona bene. Perché tutti dicono... Ci sono i Dire Straits, ma Dire Straits tutti identificano su lui, su Mark Knopfler. È caratterizzante. È lui ha deciso di fare la band, lui ha deciso di sciogliere la band, da ripresa la band. Cioè è lui praticamente. Sì. Nonostante siano dei bravi musicisti, lo stesso è. Ho un doppio legame dei Straits. Primo perché li ho suonati un po' di anni, e poi perché suonando, dedicandomi dei Straits, ho imparato a suonare un pochino meglio. Insomma, non bene, perché bene, insomma, non ci sono. Hai imparato qualcosa? Ho imparato a suonare un po' meglio. Ok, quindi siamo arrivati a che numero? Al quarto. Il quinto ci posso pensare. Sì, allora tocca a te per finire là. È bello sto gioco a ping pong. Sì, non siamo preparati. Bello soprattutto per il conduttore. Io te ne dico. Sì. Dimmi. Te ne dico due gruppi che non esistono più, proprio perché voglio sottolineare che questi due gruppi, secondo me, sono stati importantissimi nella scena del rock emergente italiano. E uno è un disco degli Scisma, che è Rosemary in Plexiglass. Sono d'accordo con te. È un disco Scisma stupendo, un gruppo molto interessante. Sparito un po' troppo presto, secondo me. Anche secondo me. e quello prima di Stardust è Giusto Mamò, che non mi ricordo come si intitola, però secondo me era un Giusto disco Mamò. Splendido. Giusto Mamò forse. Sì, sì, sì, mi pare di sì. Non ricordo proprio il titolo per esattezza, però anche questo gruppo che hai citato è decisamente secondo me importante. Anche quei due gruppi sì, esatto, secondo me sono stati dicono che gruppi... sia un ritorno degli Sisma, dicono. Dicono. Dicono. Magari. Dicono, magari. Non so, non si sa, non si sa, vedremo. Beh, vado io. Vai, dai, dai. Allora, porterei microchip emozionale di Subsonica. Ecco, perfetto. Sapevo io che arrivavano in Subsonica. Giustamente gli After Hour. Mancano i Marlene Kunz o qualcun altro, di cui ne parleremo più tardi. Di quel gruppo che citeremo più tardi. Perché voglio. Mi interessa particolarmente. Ok, ne parliamo dopo. Allora, vabbè, Subsonica perché per me state un po' alla base della mia crescita musicale. Jeremy, After Hours. Perfetto. Che è il primo disco in italiano, mi pare loro. Sì, sì. Esattamente. A mio parere il più bello. Un altro gruppo. Ci hanno preso tutti così. Appunti, però. Lo so. Un altro gruppo. Non è proprio così. Comunque, dimmi. Sempre sulla scena così underground indie. Requiem dei Verdena. Ecco, fermiamoci un secondo. I Verdena, come mai? Gruppo molto potente, ma anche nello stesso momento che ha dei... nicchia. Esatto, di nicchia. Anche se non mica tanto di nicchia, perché ha venduto parecchio. Ultimamente sì. Sì. Non lo so, nel senso, loro probabilmente hanno proprio una loro scelta, quella di restare fissi su un pubblico che li segue per quello che fanno e non perché sono dei fighi, fondamentalmente. Hanno dietro la Gestrai, la mamma è praticamente la proprietaria della Gestrai, anche se loro incidono per la multinazionale, la Warner praticamente, sì. Non hanno mai inciso per la Gestrai. Io ho seguito un po' di loro interviste perché a me piacciono tanto, e loro comunque sono sempre dichiarati per scelta, sempre molto comunque di nicchia, non hanno mai voluto dare oltre, anche se i primi dischi... Lo stesso Manuel Agnelli, per esempio, li ha criticati su questa cosa, seppur hanno collaborato. Ma Manuel Agnelli è andato a Festival di Sanremo. Lui è andato a Festival di Sanremo. A proposito, ritornando al discorso di Manuel Agnelli, sei d'accordo? È giusto? Secondo me sì, è giusto che lui abbia voluto andare al Festival di Sanremo. È stato un figo. È stato nel un senso figo. Che... anche se ha suonato malissimo. Ha steccato. Era emozionatissimo uno davanti al palco di Sanremo. Anche ci telefonano in diretta. No, secondo me è stato geniale, perché comunque forse aveva bisogno di rivenire un po' fuori. Sono d'accordo con te. È stato comunque un, ha fatto bene. Una scelta. Ha fatto azzeccata. Bene. Sono perfettamente d'accordo. Ho provato in pieno, seppur magari non era il suo ambiente. Sì, dicono che il prossimo anno ci saranno i Marlene. Io spero di sì. Soprattutto, secondo me, ha fatto capire al pubblico di Sanremo che in Italia esiste un altro modo di far musica. Chiaro, sono d'accordo con te. Che ha un seguito notevole, insomma, la musica è anche fatta da no, è giusto. Altri attori, benissimo, ma è giusto che bisogna rompere le barriere, è giusto che gli After Hours siano andati a Sanremo, sono perfettamente d'accordo. Per cui, ecco, dopo Requiem e Verdena, adesso probabilmente rimarranno stupiti i miei amiconi qua, io porto in Just For All the Metallica. Perché stupiti? Perché, cioè... non si stupisce nessuno, lo pestiamo e va. Perché, mi ricordano un po' i miei 15 anni. Metallica è un gruppo che ha sempre portato avanti un discorso, non soltanto, cioè, una volta si chiamava hard rock, ma hard rock non esiste più, Metallica non sono hard rock, Metallica sono rock e basta. Rock, blues, quello che volete. Rock, blues da milioni di copie, ma questo è un altro par di maniche. Ecco, e infine porto un gruppo emergente padovano. Dimmi. Che la pensione Garibaldi. Perché no? Si chiamano Yumiko, sono di Padova, fanno rock. Sono venuti qua a suonare, Fanno elettropop, per cui porto Lividi di Yumiko. Perfetto. E noi li salutiamo, speriamo ci stiano ascoltando. Beh, sì, salutiamo gli Yumiko. Chi tocca adesso? Allora Lorenzo, io allora li butto là. Sì, dimmi. Allora, sicuramente OK Computer, Radiohead. Fermiamoci un secondo, perché OK Computer e Radiohead, però non i Radiohead quei sperimentali dopo OK Computer? Perché appunto OK Computer è stato, diciamo, l'album che li ha, che veramente è stato il come si dice, il pilastro dal quale poi ci si può, tutti si possono appoggiare e poi si può guardare avanti. È come se fossero dei punti fermi. New York è un grandissimo autore, può andare dove vuole, dove può vuole, fare quello che vuole. Infatti sta sperimentando tante cose. Qualsiasi cosa possibile. Io li preferivo un po' prima, però comunque, insomma, vanno avanti. Sulla ricerca. Il discorso che hanno fatto su internet, sei d'accordo? Sì, questo esperimento. Loro potevano, perché avevano un budget, non avevano problemi. Non avevano nessun problema, hanno fatto una scelta diciamo abbastanza innovativa. Non so, poi alla fine mi sembra che poi abbiano fatto un passo indietro. Sì, però, esattamente. Però comunque il disco è stato stampato. Era Rainbow, sì. Rainbow, sì, sì, esatto. Sembra, sì. Ecco, dopo Sgt. Pepper, Sand Lolly, non mi ricordo. Ci dobbiamo alzare tutti in piedi, sì, per la Bibbia del rock. Vabbè, chiaro, se, forse sì. I punti forse sì, forse abbiamo imparato tutti da loro. Almeno voi musicisti, anche noi praticamente. Sicuramente io ancora quando mi capita che per radio da qualche parte mettono su qualcosa di quel periodo dei Beatles, è incredibile come veramente non è sembra non siano passati 40 anni. E cosa ne pensi del discorso della riproposta dei vecchi dischi dei Beatles ripuliti, rimessi a posto? Del cofanetto, li hai sentiti? Il cofanetto natalizio, diciamo. Non è natalizio, è uscito prima, è uscito ancora a novembre. Insomma, la modo di fare. I cofanetti, sì, chi ha in mano diciamo, il mercato discografico punta su ciò di cui vanno sicuri, cioè non si punta più alla cieca, va sempre bene. Ma Beatles non ha avuto problemi di quel genere, esatto. Però un po' come il discorso di Elvis, esattamente. No? Con Elvis tranquillamente si può buttare sempre fuori qualsiasi cosa hanno fatto cassa, e quindi sono a posto. Beatles hanno venduto però il cofanetto mono. Che non quello stereo, perché il mono i ricercatori, gli addetti ai lavori dicono che si sente meglio, e il suono è decisamente migliore nonostante sia mono. Ricordiamo che i Beatles all'epoca, parlo del 67, erano già in Abbey Road a registrare. Sì, esattamente, erano già in Abbey Road. Ricordiamo che all'epoca i Beatles si sentivano la batteria da una parte in una cassa e il chitarra dall'altra. Sì, così hanno tentato di inventare l'effetto stereo. Esattamente, l'hanno inventato loro, diciamo, dentro questo. Poi c'avevano dei produttori, degli arrangiatori incredibili, però partiva sempre da Lennon e McCartney, c'è poco da fare. Andiamo avanti, cosa dici? Poi per me è abbastanza indimenticabile, anche se li ho visti un po' di sfuggita, l'unplugged di New York dei Nirvana. Ah, grandissimo, grandissimo. Anche con gli errori, con tutto così. Sì, con gli errori, è vero. Perché non hai citato Nevermind? Beh, perché vabbè, quello è... È un classico. Sì, quello è proprio è il loro, capito? L'hanno aperto, tante strade hanno aperto con Nevermind. Sì, molto. Tutte. Diciamo, appunto, ripeto, io il primo di Nevermind stavo ascoltando altro e quindi mi è passato un po' così. Quando poi è arrivato alla fine, che era pochi mesi poi prima della morte di Kurt Cobain, ho visto quell'unplugged e lì sono rimasto abbastanza folgorato da quella cosa lì. E poi vado su qualcosa di italiano. Dimmi. Anch'io, CSI, Tabula Rasa elettrificata, che è stato qui anche i CSI, ragazzi. Dove sono, insomma? Dove sono? Ma è lui dov'è? Lui mi sembra che sia in qualche collina. In qualche collina della ha fatto un libro recentemente. Sì, che è in una fattoria, che forse è la vecchia fattoria della nonna, mi sembra. E dà da mangiare agli animali. Chissà se scrive ancora il libro. Dicono dicono che ci sono delle notizie che qualcosa sta facendo. Dobbiamo ricordare che Tabula Rasa elettrificata è stato il primo disco dei CSI a arrivare al numero 2 nelle classifiche italiane. Era mai successo che i CSI arrivassero così in alto? Sì, infatti l'ho detto proprio per quello, perché comunque è stato un momento di rivoluzione per la musica indipendente italiana. Sicuramente. Ok, chi tocca? Abbiamo finito tutto? No, sembra di sì. Tocca a te. Effettivamente, insomma, siamo 5. Quindi è difficile, no? E tornando a noi. Sì. Beh, io potrei iniziare con... Io ho iniziato, diciamo, a suonare, a ascoltare un po' la musica straniera, no? Ok. E quindi io faccio il furbo. Dimmi. E metto Queen 1, Queen 2, Queen 3. Ah, no. E magari... Posso dirti? No, ma non scegli un album dei Queen. Beh, esiste Queen 1. Sì, esattamente, sì. Queen 2. Okay. All'inizio proprio di carriera. Ok, va bene. Sicuramente sì, cioè è stato uno dei miei Non Bohemian Rhapsody, non ti interessa. Beh, hai citato un pezzo veramente che poche parole, cioè quindi opera, sì. Okay. Quindi emozionalmente i primi album di Queen. Sicuramente c'è la potenza di Freddie. Sì, straordinario. E comunque la comunicazione, l'emozione che dava. Esattamente. Sicuramente è un grande quindi frontman. Quindi Queen, assolutamente i Queen. Dai. Sicuramente sì. Poi andiamo sempre nell'ambito americano, siamo su un Bon Jovi. Mi piace molto, dire la verità, cioè i nomi degli album. No, non importa. Un Bon Jovi dannata. Bon Jovi. Anche se l'ultimo disco che ha scalato subito le classifiche americane si è fermato. Sì, ok, ma io sto parlando degli anni 80. Sì, 90, sì, no, chiaramente adesso hanno dato 2 stellette, quindi un giudizio... io non l'ho sentito. Sì, Bon Jovi di adesso... Bon Jovi è musica pop, ma un pop dilatato al 100%, insomma. È musica da classifica. Bon Jovi di una volta è un po' diverso, decisamente. Almeno secondo me. Decisamente, sì. Chiaramente i tempi cambiano e niente da dire. È sempre andare verso suoni un po' più british, sì, un po' più. E quindi cito gli Oasis. Bello, bellissimo. Tutto quanto gli Oasis, a me piace tutto degli Oasis, nonostante le baruffe continue dei due fratelli Gallagher. Sicuramente queste grandi baruffe. Mi sa che siamo al punto definitivo. Purtroppo sì, purtroppo sì, è vero. Non hanno, sì, perché lui ha spaccato la chitarra in testa all'altro, quindi. Però sai, non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai. Io spero che ci sia un ritorno. Purtroppo probabilmente tu hai ragione. Peccato, era un grande gruppo gli Oasis. Un ritorno di fiamma nel senso. Sicuramente, ma anche perché. Non so, darsi. Dimmi, dimmi. No, sicuramente mente pensante sono i due fratelli, ecco. Cioè, quindi a livello melodico e anche a livello di testi e altro, sono loro due. Adesso. Mi piace anche citare. Dimmi. Jeff Buckley. Perché no? Indietro. Perché certo lo citiamo. No? Grace, epocale, un album epocale, un album solo che ha fatto storia e farà sempre storia. Un album che. Non so, che ha aperto tante strade. Chris, lui era un personaggio straordinario. Cosa possiamo dire? Ma una voce detto brillante, tanto. Una voce, secondo me. Incredibile. Una voce veramente, come dire, splendida, comunque brillante, ma non così banale. No, cioè, nel senso da dire, aveva la sua caratteristica. Dobbiamo ricordare chi aveva i DNA. Era sì, suo papà, Tim Buckley, aveva un altro personaggio. Sicuramente, epocale. E la madre anche. E anche la madre, ma Tim Buckley, ragazzi. Come cantava Tim Buckley, pochi, quasi nessuno. E Jeff era migliore, qualcuno ha detto è migliore di Tim Buckley, può darsi, non metto in dubbio, disco bellissimo, Grace, bellissimo. E appoggiandomi al discorso di prima che con Davide dicevamo di domenica, appunto, del Vin Brulé eccetera, certo. Sicuramente posso citare i The Doors, insomma, che quindi con il cantante Jim Morrison sicuramente, uno che ha scritto Light My Fire, che ha fatto un po' di tutto. Un genio che si è autodistrutto, però era un genio. I tre G che sono morti negli anni 70, Gene Sopri, Jimi Hendrix e Jim Morrison, i tre G. Benissimo, cioè, io proporrei... Io do il quinto perché non voglio fare... Sì, ma che mi ero scordato. Furbo, io sono un ligio. Ti do il primo album dei Maroon 5. È bello quello là. Che a me è piaciuto moltissimo. È piaciuto molto. Dopo si sono commercializzati. Sì, esattamente. Ma prima erano... Però il primo era un misto di pop, sì. Con delle influenze jazz, perché sicuramente esattamente, loro hanno esattamente era fatto molto bene. Dopo tanto tempo mi è venuta voglia di comprare un CD, e quindi hai comprato quello. Lo cito per quello. Ok, io proporrei un pezzo dalla scaletta. Cosa dici, Michele? Sì, esattamente. Mettiamo quel disco, il primo disco della vostra produzione del 1999, mi pare. Sì, diciamo, è stato prodotto nel 99 ed è uscito a gennaio 2000, proprio anche lì a cavallo di qualcosa. Sì, secolo. Prodotto da noi. Prodotto da voi, autoprodotto chiaramente. Sì, anche sì. L'ultimo è autoprodotto, certo. Avete fatto tutto voi chiaramente. Certo, sì, sì. Come sempre, purtroppo, capita. Bisogna far così però per andare avanti. Non si può avere... Il produttore... Sì, sì, andiamo avanti. Adesso lo sentiamo, ok. Rock Wave. L'onda del rock. Questo tempo che sfrutta la mente e consuma la fretta che abbiamo. Sera scrivi già la prima frase di domani, io guardandoti non capisco se ancora mi manca di più quel senso del lontano. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, una cosa dobbiamo sottolineare: parlare del vostro sito, che è molto importante, e le date che avete, se avete date da suonare. Allora, il nostro sito è uno space, è www.myspace.com/pensionegaribaldi. La prossima data, alla quale invitiamo tutti gli ascoltatori di Blu Radio a venire a sentirci, è sabato prossimo, 19 dicembre, al Circolo Arci, Fahrenheit 451, in via Nicolò Tommasello. Quindi a Padova, assolutamente. Sì, non vi sbagliate, perché di fronte ci suona proprio lo stesso giorno Eros Ramazzotti, insomma. Però, insomma... Andrai a trovare parcheggio. Sì, magari venite per tempo. Esattamente. Sì, è un po' diverso, però suonate anche voi. Suona Eros, suonate anche voi. Posso dire anche che per l'occasione verrà, diciamo, a suonare con noi Porto, che è un'esperienza Porto, diciamo, un nostro vecchio amico che attualmente vive a Gemona e che torna giù per l'occasione, e quindi condividiamo il palco. Sì. E quindi alcuni forse lo conosceranno anche, insomma, però vale la pena, sarà un bel concerto, quindi vi aspettiamo numerosi comunque. Quindi 19 dicembre a Padova, praticamente. Sì. Una cosa dobbiamo sottolineare: che il disco è autoprodotto, avete fatto tutto voi? Sì. Compresa copertina, grafica, tutto quanto, eccetera, in economia, eccetera. È giusto far così, certo. C'è poco da fare. E sinceramente ci siamo divertiti tantissimo, e questa è anche, diciamo, la... Possiamo citare, sì. Cioè, grafici siete stati voi o c'è stato qualcuno che vi ha dato una mano? Possiamo citare? Se no, c'era i grafici siamo stati siamo stati lui. Assolutamente voi. Siamo stati Andrea. Siamo stati Andrea, perfetto, che praticamente ha fatto il progetto grafico. Del disco, benissimo, una cosa, esatto. Bellissima, e anche bisogna fare un'economia, c'è poco a fare. Tu dicevi, quelli erano i tempi nel studio di registrazione, dobbiamo far presto perché i soldi girano. Ma la cosa bella è che ha passato una notte a impacchettare il CD con la copertina proprio, quindi il giorno dopo, però non ce l'ha detto il giorno dopo, era un po' strano. È un po' stanco probabilmente, anche, oltre ad essere strano. E beh, sono cose che capitano. Mi diceva uno di una band che lui andava a suonare, e poi doveva lavorare, da suonare fino alle 4-5 di mattina, arrivava a casa, si cambiava e andava al lavoro. Quindi non c'è poco da fare, la passione. Io salterei cambiarmi, andrei al lavoro direttamente, un po' lavarti, sì, qualcosina. Partiamo con un altro live, allora. Cosa avete deciso di far sentire adesso? Sangue del mio sangue. Perfetto. Rock Wave. L'onda del rock. Tornare di un bambino che non può mentire mai. Se tu sei, nessuno potrà mai resuscitare. Siamo soli noi. Il solco di un ricordo che fa male. Rock Wave, l'onda del rock. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ieri sera io ho scritto le note, scrivo sempre a una certa ora, alle 4 di mattina, perché alle 3 e mezza, non è 4 di mattina, perché sento meglio la musica, ho detto un sacco di volte, ma lo ripeterò finché Rock Wave continuerà, spero che continui per tanto tempo. Perché si sente meglio la musica a una certa ora. Io questo inizio come una ballad, poi si è sviluppato in un altro senso. Era così? Il discorso della ballad, questo inizio al piano, molto delicato, e poi non dico il pathos, la violenza, no, assolutamente no, ma la forma istintiva, la potenza, quello sì. Beh, è un pezzo forte, questo che è forte nel senso. Molto bello, secondo me. A me è piaciuto molto. Intenso. Io direi che Stefano, sì, il bassista, potrebbe dire qualcosa. Vai, vai. Sì, no, beh, cioè. Sicuramente è un tipico pezzo della pensione Garibaldi, cioè una ballata in cui la melodia viene fuori nel modo prepotente, però che diciamo dà anche delle emozioni, sì, esatto, molto intime, molto intime, però contemporaneamente ne esce fuori con una grinta, cioè, sì, un come pugno dire, allo stomaco, esatto, come dai, dire, in caso. Sì, esatto, come proprio per cercare di vincere questa vena di malinconia che alla fine è tipica, insomma, del nostro modo di essere. Certo. Cioè, sì, no, spesso, insomma, il dolore per la perdita, per dover, diciamo, aver dovuto subire un lutto importante, molto spesso nel tempo, col passare del tempo, delle volte viene, diciamo, nascosto, rimane dentro e esce anche a distanza di molti anni. Questo è successo quando ho scritto il testo di questa canzone, dopo 20 anni, diciamo, da quello che cioè, era successo. A me è piaciuto particolarmente la contrapposizione tra la ballad, cioè questo piano dolce, delicato, ma malinconico, un po' ombroso, se mi è consentito dire così, e poi questa potenza, ma non una potenza devastante, una potenza però che ti fa sussultare, che ti fa muovere. Questa, la contrapposizione fra questi due momenti è indice proprio vostro, il vostro DNA, è quello che vi rende particolarmente importanti da questo punto di vista qua musicale, secondo me, perché questo è un pezzo molto bello, a mio parere il miglior pezzo dell'album, a mio parere, io lo amo particolarmente, l'ho sentito un sacco di volte, quindi mi è entrato subito dentro, e anche la vostra esecuzione stasera è stata decisamente, signor, in linea sì con quel pezzo dall'EP, però in linea, per modo di dire, poi rinnovate, ampliate, cambiate, giusto che sia così. Sai, le canzoni le senti, sono vive, quindi, e quindi insomma anche in base al momento e alla situazione possono avere una resa leggermente diversa. Secondo me questo pezzo non si può eseguire, cioè o si vive, si suona e si sente, o non si può fare. Infatti, fa parte capita, vostro, sì, capita che magari in determinate situazioni non lo suoniamo perché magari la situazione non è adatta a suonare il pezzo come deve essere suonato. Certo, perché tutto quanto era perfettamente predisposto, la batteria in una certa maniera, il piano che dava il quid, l'inizio, poi tu che hai dato una grinta notevole, il basso lo stesso, e il nostro amico Hendrix che piano piano si inseriva e poi prima si faceva sentire e poi ritornava indietro. Una cosa fatta giustamente così, che doveva essere così fatta, secondo me. Certo che ne hai di sensibilità musicale per percepire tutto io questo. Ho sentito, cioè, così queste diverse fasi del pezzo, e per quello a me è piaciuto particolarmente. Ok, 23:45, ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo suonare ancora. Cosa ci facciamo sentire adesso? Facciamo Appeso un filo. Riccardo, Appeso un filo. Che non è un pezzo dei Ribelli, non c'entra niente, degli anni 60. No, l'ultimo pezzo che non è incluso nell'album, Appeso un filo. Appeso un filo. Rock Wave, l'onda del rock. Dopo passo, vorrei ma non posso avvicinarmi a te, ma sei lontana perché ridi, gran puttana. Lasciami urlare, solo questo che so fare. Scrivo e guardo coi miei occhi le bellezze, e scuoto la mia testa e muovo le mie spalle, e muovo ad una le mie gambe. Lasciami urlare. Ladies and gentlemen, pensione Garibaldi, ok. Yeah. Ok, abbiamo sentito tanta grinta in questo pezzo. Più, penso, siamo arrivati ai vertici della grinta in questo pezzo. Più di tutti gli altri. Non so, io ho sentito così, ho avuto questa Infatti penso che questo è nato. Dimmi. Penso 4 ore dopo che avevamo finito di registrare l'EP. Ah, perfetto. Che se fosse nato 4 ore prima l'avremmo buttato dentro. Mi pare giusto. Sì, infatti volevamo tornare in poi hai fatto un sacco di cambiamenti, hai un sacco di ritmi diversi. Di hai, passaggetti. Ti sono stati dietro chiaramente tutto ad hoc. Sì, io ho dei suggeritori ottimi. Mi pare giusto che qualcosa di mio ci metto, però insomma. Ma è stato interessante. Vedi che la malattia dello stop and go. Sì, ma questo non ne usciamo. È il massimo stavolta. In questo pezzo era il massimo. Ti sei fermato un sacco di volte. Stacca stacca, ci divertiamo. È bello così. Ma è difficile per loro stacca e stacca o no? Penso proprio di no, sai, no, perché ci viene proprio spontaneo. Dimmi. Infatti sono perfetti gli stacchi, sempre perfetti, non si sbaglia mai. Non è vero, No, può capitare, però insomma fa parte No, ma ci divertiamo. Vengono spontanei, quindi vuol dire che nel gusto e nelle corde di tutti, quindi... Benissimo, una cosa secondo me ottimale. Un'altra cosa volevo chiedervi, tu hai detto che questo disco, questo pezzo non è entrato nell'album per motivo diverso. Ma entrerà in qualche altro album oppure no? Noi lo speriamo vivamente, stiamo continuando a lavorare. E dove si può comprare questo vostro EP? Dove si può trovare? Nei concerti e basta? A tutti i nostri concerti, sicuramente. Abbiamo sempre un 700.000 copie. Una bella scorta. Ogni volta che suoniamo sono a disposizione di chi lo vuole acquistare alla modica cifra di 5 euro. Quindi una cifra... bassissima e si può si può spendere sicuramente. Dimmi volevi dire qualcosa? Sì, volevo dire che in effetti abbiamo veramente gli ultimi per il 19 dicembre, perché stiamo aspettando una piccola riedizione, perché abbiamo finito le prime cose. Bene, va bene così. Sì, è andata abbastanza bene, quindi sicuramente non ce la faremo per avere le nuove per venerdì, però 5-6 copie ci sono rimaste ancora. Bene, questo è molto positivo, vuol dire che c'è qualcosa che si muove. È già disco di platino. È già disco di platino. Deno Artri, però. No, ma sono rimaste 5 copie di 150. Numero minimo, però. Adesso stiamo scherzando, però il disco di platino non ha dei numeri molto alti in Italia. No, infatti adesso ce lo diamo come obiettivo noi. Può arrivare ai 5.000 copie, 5-10.000 copie. Chiaramente, con il tempo, però. Dobbiamo fare un sacco di concerti. Bisogna farsi vedere. C'è niente da fare. Diceva un musicista tempo fa che è venuto qua, lui partiva da Milano con un panino qualche volta, aveva come compenso un panino e andava a suonare in qualsiasi parte. È ancora così, confermo. No, adesso si chiamava Dente, lo chiamavate Dente? Dente. No, Dente. È un musicista. Dente, ecco, lui l'ho sentito nominare recentemente. Dente, faceva così, partiva in giro con un panino, qualcosa. Questo era il compenso, però si doveva far sentire da tutte le parti, partiva da Milano e via. Si è preso un'aspettativa di 3-4 mesi da lavoro e faceva così. Pensa che noi abbiamo preso, siamo andati giù a Latina, ecco, non ci è andato neanche il panino, abbiamo pagato tutto noi proprio, abbiamo noleggiato il camper, abbiamo fatto un sacco di cose, ci siamo divertiti un sacco. Però vedi, lo so, on the road. Succede, però vi hanno sentito a Latina? Ci hanno sentito, ci hanno visto anche in giro per le strade in condizioni drammatiche, però è stata un'esperienza molto splendida positivo, perché ci ha amalgamato moltissimo. Ci hanno dato anche il premio della critica, ecco, tra l'altro mancava un dettaglio mica va poco. Piccolo. Una cosa che volevo chiedervi, ritornando al discorso delle band italiane, voi avete aperto i concerti della Cruz, quando la Cruz era ancora una band, com'è andata? Beh, il concerto bene, eravamo su un palco, forse il palco con il più grande impianto con cui abbiamo suonato. Diciamo, dicevi orchestrale, all'epoca, sì, del disco orchestrale. Praticamente la Cruz presentavano un lavoro tutto riarrangiato, quindi con i pezzi vecchi, sì, loro, certo, classici, però fatti con l'orchestra. Ecco, quindi è stata una bellissima esperienza, bisognerebbe farle spesso, anche perché hai la possibilità di confrontarti veramente con dei professionisti e anche magari davanti a un pubblico sicuramente più numeroso. Certo, certamente, quindi è un'esperienza molto positiva, fa crescere musicalmente parlando, fa crescere moltissimo, senti i pezzi in un'altra maniera, cioè ti arrivano anche in maniera diversa, i tuoi non li hai mai sentiti così, ti arrivano in maniera diversa. Benissimo, abbiamo tempo per sentire ancora qualcosa d'altro. La scaletta non so cosa ci sia, però le cose si possono anche inventare, no? Cosa dite? Cosa? Ma ne abbiamo. Avete? Dimmi. Visto che siamo vicino alla notte, grandi sognatori, My Dream. My Dream. Rock Wave, l'onda del rock. Sogno. Ora sto qui assorto tra i miei pensieri sperando di vivere la vita nel pieno dei propri colori. Chissà se ora o domani il bello sta proprio qui. L'incertezza esalta la diversità di ognuno. This is my dream. In my dream, in my dream, we'll be right back. mio sogno. Il nostro sogno. Pensione Garibaldi. Radio Rock Wave, l'onda del bravissimi rock. Avete fatto un crescendo per superare questo sogno di mezzanotte, bellissimo. Canta grinta, che bello che ascoltare la musica per strada in macchina di notte. Ah, bellissimo, una cosa fantastica secondo me, sentire musica di notte. Io ti chiedo una cosa, adesso siamo per concludere, suonate l'ultimo pezzo e senza soluzione di continuità mi fate il ritornello di sangue del mio sangue, attaccato, alla fine. Vabbè, va bene, è una cosa, provate, un esperimento. Provate. Intanto, innanzitutto io ringrazio della collaborazione, della siete venuti qua a suonare, è stata una cosa molto bella, molto istintiva e molto, avete, molto di grinta, di potenza, ma allo stesso tempo melodica. Avete colorato il vostro mondo benissimo secondo me. Una bella cavalcata. Avete parlato del vostro album, ripetiamo come si chiama. Sono così. Si può trovare nei vostri concerti. Pensione Garibaldi. L'ultima data nuova, il 19 dicembre. 19 dicembre al Fahrenheit 451, via Nicolò Tomaseo. Perfetto. Di fronte alla fiera. E ricordiamo il sito www.myspace.com/pensionegaribaldi. Io, Stefano, possiamo lavorare in radio. Ora tocca. Dunque. Bene. Ricorda, il chitarrista principale, come ti chiami? Andrea, chitarrista, e, beh, saluto già tutti quanti. Sì, anch'io sono Stefano, il bassista, vi saluto, vi ringrazio di averci ascoltato, speriamo di esservi piaciuti e vi presento gli altri anche. Vai, ok, vai. Dai. Mandate tanti messaggi, Pensione Garibaldi, io sono Riccardo, il cantante. Beh, da dietro la trincea dei tamburi, Davide. Arrivederci. Batterista. Lorenzo, buonanotte a tutti, grazie per averci ascoltato e arrivederci alle prossime date. Venite numerosi che ci divertiamo. 19 dicembre soprattutto, che è la prima. 19 dicembre è la prima, vai. Grazie a Michele Ottosone che ha dato la mano importantissima per la studio del programma, grazie a Roberto Baldi per la guida delle telecamere e grazie a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. La prossima settimana avremo una ragazza che farà gospel, una bella chiusura per vicino a Natale. Adesso concludiamo con un pezzo della Pensione Garibaldi. Che pezzo è? Un po' di più. Un po' di più. E col ritornello, con la fine che ho desiderato io, se è possibile. Buona notte a tutti e grazie. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Cosa più qui con me. Se un po' di te svanisce dentro me, ancora di più vorrei tenerti qui. Aspetto il giorno che nasce come il sole. Mezzanotte e 9 minuti.